e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a voi e bentornati. Oggi apriamo la puntata con una notizia di cronaca che ci porta a Roma, dove una maestra di 52 anni della scuola elementare della Garbatella è mancata lunedì al Policlinico Gemelli per una meningite fulminante dopo solo 24 ore di ricovero. Come riportato da alcuni giornali, l'ultimo giorno in classe della donna è stato giovedì 22, poi il ricovero per una febbre molto alta proprio il giorno di Natale all'ospedale San Giovanni, da cui è stata trasferita al Gemelli, ma dove purtroppo è deceduta il giorno dopo. L'ASL, attraverso la scuola, ha inviato email ai genitori degli alunni della maestra per raccomandare una profilassi antibiotica. Cerchiamo di vederci più chiaro e di capire che cosa dobbiamo sapere e fare. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Roberto Burioni, medico ordinario di microbiologia e virologia all'Università San Raffaele di Milano. Buongiorno e bentornato, professore. Buongiorno, buongiorno. Allora, professore, in diverse occasioni abbiamo parlato del vaccino, torneremo a farlo, ma partiamo proprio da questa parola, profilassi. Che cos'è, come funziona, quando scatta, in che cosa consiste? Profilassi, in termine generale, è tutto quello che facciamo per evitare che le persone si ammalino. Quindi la terapia è curarle quando sono malate, profilassi è la cosa più bella del mondo, non farle ammalare. E si può fare col vaccino. Ma il vaccino per funzionare ha bisogno di giorni, giorni che in questo caso non ci sono. Quando una persona, come questa sfortunata maestra, si ammala di meningite, è pratica comune quella di somministrare degli antibiotici a tutte le persone che sono state in stretto contatto con lei. Perché si dà un antibiotico? Perché l'antibiotico funziona immediatamente ed è in grado di prevenire l'insorgenza della malattia in eventuali persone che sono state a contatto con il malato o con qualcun altro che magari ha nella propria gola questo batterio. Ricordiamoci che il meningococco può stare nella gola delle persone senza dare disturbi a queste persone, ma che può poi passare in altri individui che, per motivi che non sappiamo bene, sviluppano questa gravissima malattia. Professor Burioni, torno un attimo sull'antibiotico per mandare un messaggio forte e chiaro. Di fronte a questi casi può salire la paura, ma non si devono assumere antibiotici come copertura. L'antibiotico non funziona come un vaccino. Professore, mi aiuti lei a passare questo concetto, perché molte persone dicono: il vaccino non lo voglio fare perché ho paura, ma se in qualche caso avverto una situazione sospetta, cosa faccio? Mi prendo l'antibiotico che male non mi può fare e mi protegge. Ecco, questo è un pensiero che, cari amici, noi non dobbiamo fare, non dobbiamo cadere in questa trappola. Professore, mi scusi, ma ho bisogno che lei ci chiarisca proprio questo passaggio, che credo sia importante, anche perché leggiamo sui giornali profilassi antibiotica e quindi è facile cadere in questo inganno. Capisco. La prima cosa che bisogna dire è un fatto molto importante: il contagio da parte del meningococco è molto più difficile di quello, per esempio, da parte dell'influenza o del raffreddore. Per contrarre il meningococco da una persona che ce l'ha nella gola ci vuole un contatto prolungato, quindi ci vuole un contatto vicino. Non basta per esempio incontrarla un attimo nell'autobus. Un conto è salire per esempio 5 minuti in un taxi, non è un problema; stare 8 ore accanto in un aereo, allora è un problema. Quindi il contagio lo rischiano le persone che sono state a contatto in maniera prolungata con la persona che può essere la fonte della meningite. La profilassi attraverso l'antibiotico deve essere riservata a queste persone e deve essere prescritta da un medico. Gli antibiotici sono farmaci utilissimi che ci hanno rivoluzionato la vita salvandone milioni, ma sono farmaci che sono talvolta controindicati, hanno effetti collaterali, possono avere reazioni indesiderate e peraltro ne danno in quantità immensamente superiori rispetto ai vaccini. Per cui il meningococco è un nemico temibile. Ricordiamoci però che non è che non c'è un'emergenza: in tutto il 2005 ci sono stati 200 casi più o meno in Italia. Quindi, per carità, bisogna essere prudenti, perché è una malattia pericolosa, difficile da diagnosticare, problematica da curare, come insegna questo triste caso. Però niente panico e soprattutto mai prendere gli antibiotici senza l'espressa prescrizione medica. Chiudiamo con la vaccinazione. A chi potrebbe essere raccomandata o meglio consigliata? Parliamo di adulti, parliamo di adolescenti e naturalmente anche poi di bambini. Tre fasce. Noi abbiamo l'esperienza di altri paesi dove questa malattia purtroppo è molto più frequente. Si immagini che in Italia i casi appunto sono 200 all'anno, in Inghilterra erano oltre 1500 prima dell'inizio della campagna di vaccinazione. Si è visto che vaccinando i bambini e vaccinando gli adolescenti si prosciuga il serbatoio delle persone dove questo batterio vive non dando disturbi, che è la sorgente dell'infezione. Quindi bisogna vaccinare tutti i bambini e bisogna vaccinare anche gli adolescenti. Chiaramente poi se ci sono degli adulti a rischio o ci sono delle situazioni a rischio si può anche prendere in considerazione la vaccinazione degli adulti. Ricordiamoci però che la vaccinazione non ha nulla a che vedere con la profilassi attuata con l'antibiotico, che si fa anche nei vaccinati perché non si possono prendere rischi e si ha bisogno di un'efficacia immediata, perché quando c'è il contagio l'infezione può partire in capo a veramente, se non poche ore, veramente pochissimi giorni. Quindi le due cose sono diverse. Il vaccino è una cosa da fare in tempo di pace, la profilassi con l'antibiotico è una misura d'emergenza, diciamo, in tempo di guerra. Grazie professor Burioni, ricordo il titolo del suo libro, Il vaccino non è un'opinione, Mondadori. Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie professore. E adesso voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento, parliamo di clima, di temperature, di inquinamento, parliamo anche di primavera. A Milano c'erano ieri 20 gradi, la stessa temperatura è stata registrata a Genova, anche in montagna, temperature primaverili e poi 18 gradi a Catania, Siracusa, Reggio Calabria, insomma una condizione che tuttavia secondo le previsioni ha le ore contate, tanto che nei prossimi giorni arriverà un assaggio di aria fredda che investirà soprattutto l'Adriatico, portando inverno, anche se per la neve in montagna bisognerà ancora aspettare. Ma lì da voi che temperature ci sono? Chiamateci, scriveteci per raccontarci che effetto vi fa questo clima quasi primaverile. Vi ha fatto venire voglia di uscire, di organizzare una gita fuori porta, di prendere la bici al posto della macchina, di fare un tuffo in mare, perché è successo nelle spiagge di Liperi, di Mondello, abbiamo pure le foto. Oppure invece state pensando al clima che sta cambiando e quindi alle conseguenze che inevitabilmente questo cambiamento porta con sé. E uso il presente perché, come sottolineano gli esperti, il cambiamento climatico non è un problema futuro, è un problema del qui e ora. E allora voglio salutare subito nel qui e ora il professor Sandro Fuzzi dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima. Buongiorno, bentornato a Cuore Denari. Buongiorno a lei. Professore, non ci sono più le mezze stagioni, questa è una frase che noi usiamo spesso per commentare un po' le bizzarrie del clima, ma il problema è molto più complesso e non si risolve così con delle battute. D'altronde sappiamo bene, e credo che rispetto al passato abbiamo maturato una consapevolezza maggiore, che il nostro pianeta si sta riscaldando e continuerà a farlo se non si prenderanno dei provvedimenti seri. Sappiamo che le attività umane ne sono la causa principale e che quello che voi addetti ai lavori chiamate eventi estremi, che sono le alluvioni, i periodi di siccità, le ondate di calore, si stanno intensificando. Professore. Sì, infatti quello che diceva lei è il grosso problema, questa intensificazione di questi fenomeni estremi. Queste anomalie, quelle che stiamo verificando in questi giorni, si sono sempre verificate. Ricordo per esempio il 1979. Ecco, ma il problema è che quello che stiamo verificando è che stiamo inanellando uno dopo l'altro la serie degli anni più caldi da quando esistono le rilevazioni strumentali della temperatura a livello planetario. Quindi professore, il dato è che si stanno intensificando questi fenomeni? Certamente. Oggi abbiamo raggiunto un aumento di un grado di temperatura medio globale rispetto al periodo preindustriale e questo aumento della temperatura media globale va di pari passo con l'aumento della concentrazione di CO2, dell'anidride carbonica nell'atmosfera, che oggi ha raggiunto le 400 parti per milione, un aumento di circa il 35-40% rispetto rispetto all'epoca preindustriale. Perché faccio sempre riferimento all'epoca preindustriale? Perché il fenomeno del riscaldamento climatico è da lì che nasce, quindi quando si è iniziato in modo sempre più massiccio a produrre energia bruciando prima carbone, poi petrolio e gas, creando i presupposti per l'aumento massiccio della concentrazione di CO2 che causa il cosiddetto effetto serra e che induce l'aumento della temperatura, e questo si verifica appunto anche con l'intensificazione, con la maggior frequenza di questi fenomeni estremi. Comunque noi in questi giorni, molti ascoltatori hanno così risposto al mio invito, mi stanno arrivando via WhatsApp tutte le segnalazioni un po' da tutta Italia su questo del tempo. In effetti la situazione cambierà, professore, ma oggi ci godiamo ancora una giornata soleggiata, sole, cielo terso, clima mite, sembra quasi un panorama da cartolina, ma al di là delle apparenze l'inquinamento è alto, anche questa relazione non c'è nuova, ma come lei ben sa, professore, a volte l'occhio inganna. Purtroppo però i dati delle centraline ci riportano subito con i piedi per terra. In linea con noi abbiamo il dottor Mauro Mocci, medico ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente. Buongiorno dottor Mocci, per il nostro consueto appuntamento. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Ci porta sempre brutte notizie, dottor Mocci. Purtroppo è così, il bel tempo porta brutte notizie. E confermo quello che stavi dicendo, che le centraline stanno dando dei dati preoccupanti, e voglio sottolineare a proposito delle infezioni che l'inquinamento rende gli organismi più sensibili e più facilmente attaccabili dai batteri. Quindi quando c'è inquinamento ci si ammala più facilmente anche di altre patologie. Andiamo subito. E questo spiega anche la diffusione dell'influenza che sta mettendo a letto gli italiani. Qualsiasi cosa con la presenza di inquinamento, si è visto che le mucose, l'organismo abbassa le difese, queste polveri ultrasottili abbassano le difese e quindi rendono i soggetti viventi più sensibili alle infezioni, quindi si ammalano più facilmente. L'inquinamento non è solo un dato, non è il bel tempo, il brutto tempo, è un problema di salute, un problema, certo, di salute serissimo. Quindi dobbiamo. Ma noi oggi, insieme al nostro esperto, daremo anche dei rimedi per cercare in qualche modo di farci un piccolo scudo nei confronti dell'inquinamento. Dottor Mocci, andiamo al nostro semaforo. Cagliari sta passando da un verde ad un arancione, perché anche lì l'inquinamento si fa sentire, nonostante sul mare, nonostante nella posizione. Poi saliamo. Idealmente andiamo a Frosinone, la zona Frosinone, Ceccano e Cassino, che veramente è problematica e preoccupante, perché sono giorni e giorni che si superano i livelli, ma arriviamo a livelli altissimi di PM10, arriviamo a 150-160, quindi questa situazione è veramente qui un rosso carico. Ma poi si sono superati più di 80 giorni di livelli, sapete che il massimo dovrebbero essere 35 giorni, e qui veramente la situazione è preoccupante. Poi andiamo più a nord, anche il nord ovviamente risente dell'inquinamento, è Trieste, anche lì si sta passando da un verde ad un arancione, perché il bel tempo, l'alta pressione, la ristagnazione dell'aria comporta un aumento dell'inquinamento. La combustione dei fossili ovviamente è un problema di inquinamento, certo, oltre che di riscaldamento globale. Dottor Mocci, io la ringrazio, ci sentiremo sicuramente per venerdì. Intanto ringrazio anche il professor Fuzzi per essere stato con noi dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima. Auguri, professor Fuzzi, noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme, vi aspetto. Cuore e denari. Siamo quello che mangiamo, lo abbiamo detto tante volte, ma siamo anche, e aggiungerei soprattutto, quello che respiriamo. Ci sono numerosi gruppi di ricerca impegnati a studiare gli effetti dell'inquinamento sulla nostra salute. Poco fa il dottor Mocci sottolineava che quando il livello di inquinamento è alto ci si ammala più frequentemente. I danni sulla nostra salute dell'inquinamento li conosciamo, ne abbiamo parlato in diverse occasioni e torneremo comunque a farlo. Danni che possono essere molto seri, peggiorare la prognosi di molte malattie o renderci alle malattie più vulnerabili. Venerdì scorso vi abbiamo raccontato i risultati di un progetto dell'Università di Torino volto proprio a riconoscere precocemente eventuali variazioni del DNA dei bambini che si verificano proprio per effetto dell'inquinamento. Potete riascoltare l'intervista andando sulle pagine di Cuore Denari. Noi apriamo sempre con delle notizie anche sulla ricerca, vi terremo come sempre aggiornati. D'altra parte la ricerca va avanti, continua, è proprio nel suo DNA cercare nuove relazioni, nuovi indizi, nuovi percorsi. E a proposito, ieri vi abbiamo parlato di una ricerca interessante, soprattutto vi abbiamo parlato del naso elettronico, un dispositivo molto semplice che permetterebbe di diagnosticare in fase molto precoce la presenza di piccoli noduli polmonari e quindi di arrivare a fare diagnosi quando le probabilità di guarigione sono del 90%. Abbiamo, come promesso, messo tutti i riferimenti sulle nostre pagine, ma molti dei nostri ascoltatori ci hanno chiesto di tornare a parlarne e noi abbiamo invitato con piacere nuovamente il dottor Roberto Gasparri, vice direttore della divisione di chirurgia toracica dello IEO di Milano, che è ancora in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. A grande richiesta, dottor Gasparri, a grande richiesta. E poi il naso elettronico, molti dei nostri ascoltatori l'hanno associato poi ad un dispositivo che molto utile a fare diagnosi in tempi molto brevi, ma soprattutto l'interesse è scaturito anche dalle domande di alcuni dei nostri ascoltatori che dicevano: beh, ma siamo, anche se io non fumo, i danni dell'inquinamento possono provocare dei problemi anche a livello polmonare. Se potessi utilizzare questo test avrei modo di capire un po' se com'è la situazione dei miei polmoni senza affrontare degli esami più invasivi. Allora, questa è un po' la ragione per cui oggi l'abbiamo nuovamente disturbate. Intanto, per un breve riepilogo, dottor Gasparri, parliamo del naso elettronico, un dispositivo, dicevo, molto semplice che permetterebbe di fare diagnosi in tempi molto rapidi. Però la curiosità è tanta. Quando sarà possibile avere a disposizione su larga scala questo esame sulla scrivania del medico di base? Beh, questo ovviamente noi l'abbiamo fatto come per 3 anni una ricerca finanziata dall'AIRC e l'abbiamo dimostrato che è importante, diagnostica, ha una sensibilità per il tumore per l'80%, no? Ho già detto ieri. Certamente portarlo poi nella pratica clinica, questo è l'intento nostro, quello di portarlo al più presto, però ovviamente bisogna attraversare un percorso di ricerca, credo nei prossimi 3-5 anni, questo è il tempo verosimile che serve, anche perché ci tengo a precisare che l'interesse nostro è quello di conoscere sempre di più il profilo metabolico del tumore. Quindi abbiamo fatto ieri l'esempio dei RIS di Parma. Certo, perché? Perché se pensiamo che il cancro è un killer, e il killer lo può riconoscere creando un identikit. L'identikit tu lo costruisci con delle impronte che vengono sicuramente dall'alito, ma utilizzando altri fluidi biologici, per esempio le urine o per esempio il DNA sangue. Stesso, il DNA che avete appena parlato. Con queste impronte che gli americani chiamano fingerprint, noi uniamo e creiamo un identikit e arriviamo a identificare il killer, e questo è quello che stiamo facendo allo IEO. E si può sicuramente partecipare, tutti quanti possono partecipare mandando un'email, come ho già detto, al bref.test@leo.it, e possono comunque provare a darci il loro alito, le urine o il sangue. E con questo noi proseguiremo nei prossimi 3 anni. Verosimile arriveremo a creare questo prototipo che si può utilizzare in ampia scala. Professore, ripetiamo l'indirizzo mail in modo che i nostri ascoltatori possano scrivervi, lo mettiamo anche sulle pagine social. Sì. Respiro in inglese? Assolutamente sì, quindi breath.test@ieo, che è l'ospedale, istituto europeo oncologico.it. Grazie dottor Gasparri per essere stato con noi. Potete cortesemente ripetere chiaramente il nome dell'esame di cui state parlando? L'abbiamo ripetuto in più occasioni. Grazie dottor Gasparri, ci sentiamo per ulteriori aggiornamenti, ci auguriamo, a partire da gennaio. Grazie dottore. D'accordo. Auguri. Arrivederci a tutti. auguri. E noi, come promesso, andiamo a sentire anche che aria tira in farmacia. In linea con noi, in diretta direi dal bancone, il dottor Paolo Vintani, farmacista vicepresidente di Federfarma Provinciale Milano Monza e Lodi. Buongiorno dottor Vintani. Buongiorno Nicoletta, grazie ancora dell'invito. Allora, dal bancone. Oggi rimedi naturali per proteggerci dall'inquinamento, se il bel tempo continua toccherà acquistare anche le creme solari, ma prima dottor Vintani un consiglio per gli influenzati, perché il numero, anche per, a causa di questo inquinamento, sta aumentando significativamente. Io immagino che dal suo bancone se ne renda conto. Sì, assolutamente sì. Diciamo che il primo approccio all'ambiente, devo pensare agli oli essenziali diffusi. L'olio essenziale diffuso con diffusori, banalmente quelli della candela, mettendo qualche goccia sull'acqua o sui gli strofinacci, gli asciugamani che poniamo sui caloriferi, diffusi nell'aria, se è olio essenziale puro, non fa altro che creare un'emulsione e far depositare le polveri per terra, quindi questo rende l'atmosfera della stanza più adatta a malati, a quindi se abbiamo un malato, un influenzato a casa, un po' di olio essenziale. Olio essenziale di timo, lavanda o pino, quello che preferiamo, anche banalmente sull'asciugamano che poniamo sul calorifero. Perfetto. Ed è molto utile, o altrimenti se noi andiamo in giro, qualche goccia sul fazzoletto ogni tanto possiamo sniffarlo e ci è utile anche durante la giornata. Perfetto. Un altro, due piccole chicche possono essere un limone coperto di chiodi di garofano, totalmente coperto, per lasciare in mezzo alla stanza. È un ottimo diffusore d'aromi e attira. Costa poco? Costa niente, poco, giusto, i chiodi di garofano e il limone. E il limone rimane anche un oggetto carino da vedere, ci si diverte a riempirlo totalmente. Quindi facciamo lavorare anche l'influenzato, gli facciamo fare un po' di bricolage. Si mette i chiodi di garofano. Un altro consiglio che amo molto è andare a acquistare un capelvenere, che è una pianta della famiglia delle felci, da tenere in casa, ed è un ottimo depuratore d'aria. Ah, buono, questo è bellissimo, piace, da vedere, molto una felce bella. Però da vedere in piccolissime, si chiama capelvenere dei capelli delle donne, per cui ha piccolissimi steli, molto leggero, molto soave, ed è un ottimo depuratore d'aria. Magnifico. Senta, dottor Vintani, occupiamoci invece dell'aria che tira nelle nostre città, parliamo quindi di inquinamento. Come possiamo difenderci? Anche la natura ci dà una mano? Sì, due cose mi rimango da dire. Una, io penso all'inquinamento a 360 gradi, che è lo stress fisico d'assorbimento, ma anche lo stress psichico. Ci sono due piante molto importanti. Noi quando siamo stressati anche da inquinamento atmosferico aumentiamo il nostro tasso di cortisolo. Sì. Se noi assumiamo la rhodiola rosea, la troviamo in varie forme, in compresse, è una pianta dell'Himalaya, quindi ci porta alle alte vette, oppure l'Eleutrococcus senticosus, sempre in capsule o in gocce, sono degli ottimi adattogeni, cioè diminuiscono il tasso di cortisolo e ci preparano alle difese dello stress atmosferico e anche psichico e fisico, di cui parleremo anche nel corso della nostra trasmissione. Dottor Vintani, lei ieri, quando ci siamo sentiti e l'abbiamo invitata nuovamente a partecipare alla trasmissione di oggi, mi ha detto che aveva a cuore di fare un appello, una raccomandazione, perché ciascuno di noi può fare qualche cosa. Sì, quando lei mi ha detto che il primo step per l'inquinamento siamo noi stessi, mi è piaciuto molto, è vero. Noi ci accorgiamo che quando vengono a mettere i farmaci scaduti nei bidoni al di fuori delle farmacie, c'è un errore fondamentale, non si sconfezionano. Io vedo scatole enormi di lavande vaginale di cartone, magari con all'interno una sola residuo, mettendo dentro la scatola. Io prego vivamente di dividere a casa il cartone col cartone e il farmaco col farmaco che verrà messo negli appositi contenitori. In aggiunta va ricordato che ci sono alcuni farmaci, soprattutto quelli per i problemi respiratori, mi riferisco agli inhaler, quelle apparecchiature di plastica che servono per gli asmatici, che sarebbe opportuno smontarli, perché a quel punto la differenziata si divide in tre: cartone, plastica e farmaco, e sarebbe un grosso successo. Anche qui, quindi differenziamo quando... Differenziamo, sì. Dottor Vintani, i miei ascoltatori suggeriscono i rimedi. Tra i tanti le propongo un sms di Gabriella che ci scrive: ma che cosa mi dite della curcuma? Ci aiuta anche la curcuma oltre a dare sapore ai piatti? Io la uso un po' ovunque, l'abbino anche al pepe perché mi hanno detto che così è più biodisponibile. Tanto a me piace sia la curcuma che il pepe, penso male non farà, ci fa bene? La curcuma sì, assolutamente, perché è un antiossidante. Tutti gli antiossidanti, anche la rodiola che ho citato prima, ha un'azione antiossidante, oltre che diminuire il cortisolo. Sì. Tutti gli antiossidanti fanno sì che il nostro sistema immunitario funzioni meglio e possono essere considerati antidegenerativi. La degenerazione va dal tumore alla ruga, quindi sì. Qualsiasi cosa che quindi, qualsiasi invecchiamento, per cui sì, assolutamente. Dai, è un andiamo di curcuma, colora, è bella, è buona. Colora un po' troppo, a volte maneggiandola rimane molto gialla sulle dita. Comunque grazie, grazie dottor Vintani. Noi vogliamo sentire il nostro GR, poi vi aspetto qui di nuovo insieme tra poco. Cuore e denari. Take me back, I've been away too long. Take me back to my home, sweet home. Eh sì, vi porto a casa, torniamo insieme e torniamo a parlare di casa. Un bel promemoria per tutti gli adempimenti di denari che riguarderanno il nostro mattone nel 2017, e lo facciamo oggi con l'aiuto di Cristiano Dell'Oste e del Sole 24 Ore, di cui vi abbiamo già anticipato la venuta qui in studio proprio ieri. Ciao, ci stavamo aspettando. Intanto auguri. Allora, Cristiano, un po' come abbiamo fatto ieri con Giovanni Parente, parlando di fisco, di dichiarazione dei redditi e dintorni, anche con te oggi vogliamo approfittare di un momento, di questo momento in cui siamo un po' sospesi tra Natale e Capodanno, per prendere il giusto distacco dalla routine, fare un respiro e mettere, perché no, a fuoco le scadenze, gli adempimenti importanti da non dimenticare nel corso di quest'anno per tutto ciò che riguarda i nostri denari e la nostra casa. Parleremo quindi con te oggi di quegli impegni che vorremmo evitarci ma sono inevitabili, come il pagamento delle tasse, IMU e TASI per chi le deve versare, ma non dimenticheremo naturalmente le opportunità che potremo cogliere nel nuovo anno, in primis quella dei bonus fiscali per i lavori di ammodernamento della casa. Quindi abbiamo molto da raccontare, possiamo naturalmente contare anche sull'aiuto dei nostri ascoltatori che suggeriranno i loro quesiti, le loro domande, i loro dubbi, ma anche e soprattutto le loro esperienze, perché dagli errori degli altri non si impara mai, ma a volte qualche, no? Qualche certo. Indicazione può arrivare. 800 24 00 24, se tra una festività e l'altra state progettando di rivoluzionare la vostra casa nel nuovo anno e pensate di fare dei lavori di ristrutturazione, se state cambiando casa, comprandone una nuova e non siete magari sicuri delle scadenze fiscali che vi coinvolgeranno nell'anno nuovo, e anche se a forza di sentir parlare di legge di stabilità non vi è chiaro in fin dei conti che cosa cambierà per questo benedetto anno su questo fronte. Quindi scriveteci anche via WhatsApp. Allora Cristiano, prima di guardare all'anno nuovo, ancora uno sguardo al 2016. Abbiamo parlato nelle scorse settimane con Deborah del pagamento del saldo IMU e TASI che scadeva il 16 dicembre. Ecco, sappiamo che in queste settimane di dicembre siamo tutti un po' smemorati, pensiamo ai regali a Natale, eccetera, e qualcuno potrebbe essersi reso conto di aver perso questa scadenza, no? Oddio, me la sono dimenticata. Allora, a che cosa si va incontro, ma soprattutto come si può rimediare? Certo, ma diciamo innanzitutto che chi non avesse pagato o si accorge di aver pagato meno può ricorrere a un istituto che tecnicamente si chiama ravvedimento operoso, ma che in sostanza vuol dire che si può pagare in ritardo con una piccola sanzione, con gli interessi legali che poi diremo tra un attimo come sì. Come si calcolano, e ovviamente versando l'imposta che non si è versata. La sanzione da pagare è tanto più ridotta quanto più ci si sbriga, diciamo così. Sì. Quindi nei primi 14 giorni di ritardo, adesso siamo ancora nei primi 14 giorni di ritardo, la sanzione è soltanto lo 0,1% al giorno. Quindi davvero, se pensiamo al pagamento medio di IMU e TASI, sono verosimilmente niente, pochi spiccioli. Dopodiché, una volta arrivati dal quindicesimo giorno in poi, per così dire, allora la sanzione aumenta leggermente, arriva poi ad attestarsi all'1,67%, quindi ancora un po' di più. Ma stiamo parlando comunque, lo capite bene, di importi tutto sommato limitati. La cosa veramente importante per quanto riguarda il ravvedimento operoso nei tributi locali, qui c'è una differenza grossa tra tributi locali e tributi erariali, è il termine entro cui lo si può fare. Perché? Perché se parliamo di IMU e TASI, l'IMU e TASI relative al 2016, quindi sia quella dello scorso 16 giugno che quella di dicembre, le possiamo ravvedere soltanto entro il 30 di giugno del 2017, che è il termine per la dichiarazione IMU TASI, certo, non oltre. Questo cosa significa? Significa che, ad esempio, chi si dovesse accorgere adesso di aver commesso degli errori sull'IMU e sulla TASI dell'anno scorso, intendo dire del 2015, e beh, non è più in tempo per fare nessun tipo di ravvedimento e deve aspettare l'eventuale accertamento da parte del comune. In quel caso la sanzione sarà più alta. Tanto più alta? No, sarà del 30%, perché parliamo di minori versamenti. Comunque la regola è: prima si fa, meno si paga. Esattamente. Poi dicevamo degli interessi legali. Sì. Allora, gli interessi legali sono pari allo 0,2%, quindi parliamo veramente di poco, e vanno parametrati al numero dei giorni di ritardo. Quindi se io avessi un ritardo, per farla semplice, di 6 mesi, in quel caso vado di fatto a pagare gli interessi come se fossero lo 0,1, certo, perché è la metà appunto del periodo di riferimento. Però importante sapere, sappiamo insomma che anche per effetto delle politiche della Banca Centrale Europea il denaro ormai costa pochissimo in Europa, è già stato emanato il decreto del Ministero delle Finanze, dell'Economia, che dal 1 di gennaio del 2017 rivede ulteriormente al ribasso gli interessi legali, che sono credo a un minimo storico e che nel 2017 diventeranno dello 0,1%. È importante sapere questa differenza, ovviamente parliamo di pochi spiccioli. Però chi dovesse andare a fare un ravvedimento nel 2017 dovrà calcolare gli interessi legali fino al 31 dicembre 2016 allo 0,2 e poi dal 1 di gennaio allo 0,1. Ci sono programmi su internet che lo fanno, ma insomma è bene sapere anche questo. Senti, per quanto riguarda il versamento, le modalità di versamento sono sempre le stesse, sono F24. Due, o il modello F24 esattamente, oppure il bollettino postale predisposto dai singoli comuni. Allora, ieri con Giovanni, poi non te lo dico più perché so che poi se no parlo sempre di Giovanni Parente, con Giovanni Parente parlavo di te, e quindi allora prendiamo in mano l'agenda. Ieri con Giovanni ci siamo appuntate le scadenze per la dichiarazione dei redditi e la rottamazione delle cartelle Equitalia per la fiscalità sulla casa. Quali sono le date da segnare? Sono poche. Sono sostanzialmente, facciamo veloci, il 16 giugno, che è la scadenza della prima rata dell'IMU e della TASI, e il 16 dicembre, che in realtà nel 2017, in base alla regola per cui si passa al primo lunedì, diventa 18 di dicembre 2017. Senti, ma Cristiano, rispetto alle modalità di calcolo e alle modalità di pagamento cambia qualcosa? Vogliamo riepilogarle? Possiamo ricordarle sicuramente. Diciamo che la legge di bilancio per il 2017 ha rinnovato il blocco delle aliquote per i comuni, quindi come già capitato nel 2016, anche nel 2017 i comuni non potranno prevedere degli aumenti di IMU e TASI, potranno eventualmente soltanto prevedere delle agevolazioni, se ce la fanno dal punto di vista del bilancio, se lo vogliono fare. In ogni caso bisogna controllare di fatto la delibera, la si può verificare sia sul trovaliquote che abbiamo sul sito del Sole 24 Ore, il dossier IMU e TASI è ancora disponibile all'indirizzo ilsole24ore.com/IMU TASI 2016, oppure sul sito del Dipartimento delle Finanze, che è l'unica fonte ufficiale. Lo ricordiamo, il sito delle finanze prevale anche sui siti dei singoli comuni, nel senso che in caso di difformità, esatto, vale quello che è riportato sul sito delle finanze. Senti, ricordiamo ancora una volta chi è interessato dal pagamento di IMU e TASI, che invece non lo è più, perché insomma chi paga e chi non paga. Sicuramente sono tenuti al pagamento della TASI tutti i proprietari di seconde case, quelli che vengono definiti proprietari di prime case di lusso. Esattamente, parliamo, diciamo, castelli, che case magnifiche, sono tre categorie, sono tre categorie catastali rispetto alle quali si paga ancora per l'abitazione principale. Sì. Sono le categorie catastali A1, A8 e A9. Attenzione, parliamo veramente di pochissime abitazioni. Facciamo caso che sono poco più di 70.000 abitazioni a fronte di quasi 20 milioni di abitazioni principali. Sì, quindi questo ci dà la misura. Davvero meno dell'1%, davvero una piccola piccola quota di abitazioni considerate di lusso sotto il profilo catastale. Poi qui c'è un problema di equità, perché ogni tanto emerge questa cosa, ce lo scrivono anche i lettori, molte case che realmente sono di lusso non vengono considerate come tali dal catasto, ma qui è un problema che abbiamo affrontato tante volte con Deborah, certo. Sì. Senti, invece quelli che sono esentati dal pagamento della tassa TASI, quelli della prima casa, naturalmente. Certo, ovviamente i possessori di abitazione principale. Poi sulla TASI bisogna dire una cosa importante, e cioè che questa imposta può essere pagata anche sui fabbricati diversi dall'abitazione principale se il comune la istituisce. Questa è una cosa che a volte sfugge un po', nel senso che la TASI colpisce ovviamente le abitazioni principali e quindi non si paga più, ma a discrezione del singolo comune può colpire anche tutti o una parte soltanto dei fabbricati diversi dalla prima casa. Quindi bisogna andare a riscontrare sulla singola delibera. Ad esempio, nel comune di Milano la TASI si paga anche sulle seconde case, mentre altri comuni sulle seconde case fanno pagare soltanto l'IMU. Idem per altri tipi di fabbricati produttivi o box e così via. Quindi è una verifica importante, anche perché poi lo sappiamo, nel caso delle abitazioni diverse dalla prima casa, una fettina della TASI, compresa tra il 10 e il 30%, anche qui a scelta del comune, ricade sull'occupante, che può essere l'inquilino, può essere il comodatario che usa la casa in comodato gratuito, o anche il titolare del leasing. Allora, abbiamo Vito che ci chiama dalla provincia di Torino. Buongiorno Vito. Buongiorno. Che tempo fa lì? C'è il sole. C'è il sole. Bene. 16 gradi. Ecco, anche un amico che sta potando le viti a Gattinara dice che c'è un tempo straordinario ed è un po' preoccupato. Allora, certo. Vito, ma non di clima, ma di? Di risoluzione anticipata. Voleva parlarci, Vito. Bene. Voilà. Ecco. Sì, grazie, salve. Nel caso appunto che l'inquilino se ne vada dall'immobile, dall'alloggio in affitto, ecco, chi spetta a pagare la risoluzione anticipata in questo caso? Beh, allora qui però stiamo parlando dell'imposta per quanto riguarda la risoluzione del contratto d'affitto, quindi sì, non di mutasi, ma di imposta di registro, giusto? Sì, appunto. Diciamo, tornando al discorso del ravvedimento operoso, ovviamente non andranno a prendere quel signore che non ha pagato la risoluzione anticipata, che in questo caso spetta sempre all'inquilino, ma come proprietario poi alla fine, che dovrà poi pagare solo lui, il classico 67 euro più il ravvedimento operoso. Certo, ma diciamo allora, sì, chiaro. Diciamo, abbiamo bisogno di una contestualizzazione a beneficio dei nostri ascoltatori, come direbbe Deborah. Sì, esatto, nel senso che inquadriamo un po' la situazione. Qui non stiamo parlando di IMU e di TASI, qui stiamo parlando dell'imposta di registro. Nel caso specifico del nostro ascoltatore, l'abitazione era affittata. L'inquilino ha dato quella che si chiama la disdetta del contratto con i 6 mesi di preavviso, o forse si sono anche messi d'accordo, come spesso succede, per derogare in parte a questo termine di 6 mesi, e il proprietario, per evitare di continuare a pagare le tasse su un canone che non percepisce più, deve ovviamente registrare la risoluzione contrattuale alle entrate, perché altrimenti le entrate non sanno che il contratto è finito, certo, e quindi continuano a pensare che sia in corso. La domanda del nostro ascoltatore in realtà pone un problema molto comune per molti proprietari, perché spesso quando l'inquilino appunto disdetta il contratto fa i bagagli, se ne va e non paga l'imposta sulla risoluzione. In realtà, per quanto riguarda l'imposta di registro, la normativa dice che questa grava in solido sul proprietario e sul conduttore. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto le entrate possono rivolgersi, chiedendo l'intero, a una qualsiasi delle due parti in caso di mancato pagamento, salvo che poi una parte potrà andare a chiedere la metà all'altra. Allora, in questo caso l'imposta dovrebbe essere divisa a metà tra le due parti. e tuttavia se l'inquilino ormai se n'è andato e si è trasferito, purtroppo finirà per gravare di fatto interamente sul proprietario. Quindi se il proprietario, tanto più che ha l'interesse a risolvere il contratto, vuole risolverlo, diciamo che la prima cosa è tentare di farsi dare metà dell'imposta dall'inquilino. Se però non riesce a farlo, comunque gli converrà fare la risoluzione per evitare che gli si chieda appunto il canone e pagarla interamente lui, nell'attesa, sperando di poterla recuperare dall'inquilino. Allora, domanda di Daniela via WhatsApp. Io sono in affitto, è la mia abitazione principale perché non ho case di proprietà, devo pagare la TASI? Qui la risposta è dipende dal comune, nel senso che se questa nostra ascoltatrice vive in un comune che ha istituito la TASI anche sulle abitazioni locate, lei è tenuta? Oddio, in realtà no. Adesso attenzione, facciamo un ragionamento. Lei ha detto che quella è la sua abitazione principale. Sì. Quindi se lei non ha case di proprietà. Ok, però se lei dice abitazione principale, io deduco che lei abbia la residenza in quella casa. Allora, la legge di stabilità che l'anno scorso ha cancellato la TASI sulle abitazioni principali dei proprietari, l'ha cancellata anche sulle abitazioni principali di chi vive come inquilino. Ok. Quindi lei come inquilina non paga più la TASI. Il proprietario, se ci troviamo in un comune che ha istituito la TASI, continuerà a dover pagare la TASI come abitazione affittata, che in quel caso sarà una TASI compresa tra il 70 e il 90%, perché dovremo togliere la quota dell'inquilino che è esentata. Sì, Daniela che ci sta scrivendo via WhatsApp, ci scrive sì, ho la residenza. Bravo. Perfetto, allora lei non si deve preoccupare più di nulla. Allora, invece Andrea da Taranto fa una domanda, tu sicuramente saprai a che cosa si riferisce, per me è molto fumosa. Con la cedolare secca l'IMU diminuisce, Cristiano? Allora, cosa vorrà dire Andrea da Taranto? Allora, qui parliamo perché tu leggi tra le righe e oltre le righe, per cui allora, adesso cerchiamo di interpretarla. Intanto Daniela dice grazie mille. Prego, prego. Allora, la cedolare secca è l'imposta sostitutiva che si paga sul reddito delle abitazioni affittate. Anziché pagare l'IRPEF, il proprietario che affitta un'abitazione può optare per la cedolare secca e quindi ha un'imposta che sostituisce appunto l'IRPEF, le addizionali dell'IRPEF, l'imposta di registro e il bollo. E questo è il regime della cedolare secca. Il proprietario chiede se c'è una correlazione, un impatto tra la scelta per la cedolare secca e la tassazione IMU TASI. La risposta è no. Normalmente, nel senso che io posso pagare l'IRPEF, pagare la cedolare e la tassazione IMU non cambia. Dove bisogna fare attenzione è su un fatto che io potrei aver affittato una casa a canone concordato e applicare la cedolare secca. Allora, in quel caso, il fatto che la casa sia affittata a canone concordato mi dà diritto dal 1 di gennaio del 2016 a uno sconto statale, quindi previsto in tutti i comuni, che è pari al 25% dell'IMU e della TASI che devo pagare su quella casa affittata. Ma lì è il fatto che ho fatto un canone concordato, non la scelta della cedolare a determinarmi lo sconto. Bravo, e anche questa volta hai superato la prova, perché Andrea da Taranto ci scrive esatto, grazie ad Andrea da Taranto. Allora, se avete altre domande su IMU e TASI, siamo qua all'800 24 00 24, siamo in realtà c'è Cristiano, però adesso io mi sposterei sul piano delle ristrutturazioni. Alla conferma dei bonus fiscali per l'ammodernamento della nostra casa, anno dopo anno ci stiamo ormai abituando, ma Cristiano, è tutto confermato anche nel 2017 per i bonus ristrutturazione e miglioramento energetico? E a proposito abbiamo subito una domanda da Angela che ci chiama dalla provincia di Lucca. Voilà, Angela, benvenuta. Buongiorno, grazie. Così lei ci introduce al tema. Dunque, io volevo soltanto chiedere, volevo fare un ammodernamento non interno alla casa ma esterno, cioè siccome la mia casa da una parte chiaramente è esposta a nord e mi fa sempre tantissima muffa e così via, quindi volevo quella parte, quella piccola parte di giardino. Ma come la toglie poi lei la muffa, scusi? No, volevo appunto sapere se potendo mattonellare i muri, la parte erbosa e così via, potevo rientrare nel, diciamo, nel bonus fiscale, ok. Sì, nel bonus fiscale. E poi volevo anche un'ultima domanda. Entro quanto tempo questo bonus viene, diciamo, restituito? Perché ho sentito anche di tempi lunghissimi di restituzione, chiamiamola così. Ok, una domanda alla volta. Una domanda alla volta. Allora, Cristiano. Allora, diciamo subito, per cominciare, che tu facevi riferimento appunto alla conferma delle agevolazioni fiscali, allora abbiamo una conferma per alcune detrazioni, per altre si cambia parecchio. Allora diciamo che intanto la detrazione, che è pari al 50% fino a una spesa massima di 96.000 euro per la ristrutturazione delle abitazioni, è confermata per 12 mesi fino al 31 dicembre 2017. Ok. Quindi questa è il primo punto. Ce la portiamo fermo a casa. Poi affrontiamo, così diciamo subito anche questo aspetto, il recupero. Sì. Allora, il recupero della detrazione avviene in 10 anni. Cosa significa? Significa che se io faccio una spesa nel 2017, a partire dalla dichiarazione dei redditi che presento nel 2018, relativa ai redditi 2017, potrò andare a scontare la prima rata di detrazione. Immaginiamo che io abbia speso 10.000 euro, ho una detrazione complessiva di 5.000, perché appunto è il 50%, da recuperare in 10 anni, quindi 500 euro. Esattamente. Dalla dichiarazione dei redditi che presento nel 2018 andrò a scontare 500 euro dall'imposta dovuta. Attenzione, quindi noi parliamo di rimborso, perché chi fa il modello 730 ragionevolmente avrà un rimborso in busta paga o con la pensione, ma tecnicamente è una detrazione, quindi è un importo che si va a sottrarre dall'imposta dovuta. Quindi presuppone che io abbia un'imposta da pagare, perché se io non avessi imposta da pagare il rimborso non mi arriva. Quindi quello è il primo aspetto da tenere presente. Poi veniamo ai lavori che voleva fare la nostra ascoltatrice. Allora, il fatto che riguardino i muri esterni non è un problema, nel senso che si tratta comunque di opere che riguardano i muri della casa, quindi sono perfettamente detraibili. Quando andiamo a intervenire invece, per così dire, nel giardino, ecco lì bisogna ragionare un attimo, perché sono agevolate anche gli interventi sulle pertinenze dell'abitazione, quindi in linea di principio sì. Ovviamente se il giardino è molto grande, se stiamo parlando di una opera che incide pesantemente all'esterno dell'abitazione, va sempre interpretata un pochino con buon senso, nel senso che è un'agevolazione che premia la riqualificazione delle abitazioni. In questo caso, da come lo descriveva l'ascoltatrice, mi pare che il lavoro possa essere tutto detraibile. Allora, ultimi minuti, parliamo del cosiddetto ecobonus, che si mantiene, Cristiana, quota 65%. Qui si tratta di lavori di miglioramento energetico e quindi non di ristrutturazioni tradizionali. Ci fai di nuovo a chiusura un esempio pratico per chiarire la differenza tra questi due differenti sconti fiscali? Certo, allora tra l'altro prima vorrei dire una cosa che è importante, e sì, che l'ecobonus al 65% viene confermato per 12 mesi, quindi 31 dicembre 2017, per le singole unità immobiliari, ma viene prorogato per 5 anni, quindi fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi nelle parti comuni condominiali. Quindi questo è molto importante. In condominio ci sono 5 anni. Che, sappiamo che in condominio non è facile decidere, deliberare, raccogliere i preventivi e così via. Gli interventi agevolati sono gli stessi dell'anno scorso, di quest'anno, del 2016, e in più per due particolari tipologie di lavori la percentuale può arrivare al 70 o al 75%. Vediamo prima quelli che sono confermati, per fare qualche esempio. Allora, sicuramente la sostituzione della caldaia con un impianto a condensazione, le coibentazioni, quindi i cosiddetti cappotti termici, coibentazioni del sottotetto e così via, l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, l'intervento di gran lunga più popolare nelle singole abitazioni, un po' meno in condominio, la sostituzione degli infissi. Esattamente, che nelle case singole vale circa metà di tutti gli interventi. E poi altri interventi minori, come ad esempio l'installazione di schermature solari, l'installazione di generatori di calore a biomasse, gli interventi per la domotica, quindi le apparecchiature tecnologiche per controllo da remoto, del riscaldamento e del condizionamento. E poi vediamo in quali casi si può arrivare con le detrazioni maggiorate, dicevamo. Allora, si può arrivare al 70% se l'intervento viene fatto in condominio sull'involucro dell'edificio e va a coprire almeno il 25% della superficie disperdente lorda. Quindi bisogna intervenire sull'involucro, in genere il sottotetto non basta per fare il 25%. E poi si può arrivare a una detrazione del 75% se le opere migliorano la prestazione energetica invernale ed estiva dell'edificio e raggiungono almeno la qualità media fissata da un decreto ministeriale del 2015. Allora qui è chiaro che stiamo parlando di interventi molto, molto pesanti. Certo, c'è però una cosa da dire, che quando si raggiungono queste percentuali maggiorate, la legge di bilancio del 2017 dà la possibilità di cedere questo bonus ad altri soggetti. È una possibilità che c'era già nel 2016, ma per come era scritta la norma nel 2016 non funzionava. Cioè? Adesso c'erano troppe limitazioni, perché la possibilità di cedere il bonus era riservata solo a chi era incapiente dal punto di vista fiscale. Quindi in un singolo condominio avremmo dovuto avere alcune persone che il bonus lo tenevano per sé e altre che lo cedevano. Questo era molto complicato. Adesso invece c'è la possibilità, per come è scritta la norma, che tutti coloro che vivono nel condominio decidano di cedere il bonus, ad esempio, all'impresa che fa i lavori. Sì. In cambio, presupponiamo, di un bello sconto. Allora qui il discorso diventa più interessante, può diventare più facile anche mettersi d'accordo. E certo, e può essere una cosa che io faccio già emergere quando raccolgo il preventivo da parte dell'impresa. Quindi diventa un ragionamento che può anche aprire nuovi spiragli di mercato. L'unica incognita da questo punto di vista è che, perché questa cessione sia ancora pienamente operativa, manca un provvedimento del direttore delle entrate che dovrebbe arrivare nel giro di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, ci dice la stessa legge di bilancio. Speriamo che arrivi il più in fretta possibile, perché andrà così a definire anche un quadro di regole certe. Scusa, proprio una battuta, per mobili elettrodomestici confermato ci sono oppure ci sono delle novità? Sì e no, nel senso che è confermato lo sconto fiscale abbinato ai lavori di ristrutturazione, quello per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici fino a 10.000 euro con detrazione del 50%. Non viene invece prorogata la detrazione sull'acquisto dei mobili fino a 16.000 euro riservata alle giovani coppie che comprano casa. Questa scade di fatto tra due giorni, scade il 31 dicembre di quest'anno. Allora, Cristiano, grazie, torna presto. Grazie a voi. Anche grazie da parte dei nostri ascoltatori che ci si complimentano con te per la chiarezza, la puntualità, la comprensione, insomma tutti questi belli complimenti. Adesso, dopo gli aggiornamenti dalle borse, noi continueremo a stare nelle nostre case per parlare di quella che gli americani hanno definito Christmas blues, una sensazione di malinconia che accompagna proprio alcuni di noi in questi giorni che dovrebbero essere di festa, ma che in realtà finiscono con l'amplificare quella sensazione di nostalgia, di malinconia che ci portiamo nel cuore e che da cui vogliamo un po' liberarci. Quindi a tra poco per una nuova ristrutturazione. Cuore e denari. Back home. Eccomi qua di nuovo con voi e continuiamo a parlare di ristrutturazione, che credo potrebbe essere la parola chiave anche di questa seconda parte di trasmissione, perché dopo aver sistemato la nostra casa pensiamo un po' a noi e lo facciamo provando a dare un nome a quella strana sensazione con cui molti si confrontano proprio in questi giorni di festa, perché Natale è indubbiamente una festa importante, ma è una festa che lascia il segno, perché è una festa carica di significato, ma anche di attese e di pretese. Gli americani, che sono molto abili nell'etichettare le situazioni, la chiamano Christmas blues, un termine che viene ormai usato per individuare quello strano mix tra malinconia, ansia, senso di inadeguatezza, timore, che spesso caratterizza le giornate che seguono il Natale e precedono il Capodanno. Vi ho chiesto all'inizio della trasmissione di mandarmi un messaggio per dirmi che tempo fa lì da voi, e vi ringrazio perché ne avete mandato davvero tanti, ne ho letti alcuni, li continuerò a leggere se c'è tempo nel corso della trasmissione. Ecco, vi giro la stessa domanda per raccontare all'800 24 00 24 che atmosfera c'è dentro il vostro cuore, che cosa sentite. In linea con noi è tornato Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta, autore di numerosi libri. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, c'è il Natale del cuore, degli affetti, il Natale pieno di gioia, di luce, in cui tutti si scambiano gli auguri, le promesse e amano proprio condividere una vicinanza emotiva, ma c'è anche l'altro lato del Natale, un Natale che sembra diventare amplificatore di sentimenti ed emozioni che stridono un poco alla festa della gioia e dell'amore in cui tutti si sentono, cercano di sentirsi buoni. Tu hai scritto sul tuo blog un post proprio su questo tema che ha avuto tantissime visualizzazioni, il che vuol dire che il tema è sentito e anche condiviso. Alberto. Sì, effettivamente per alcune persone a Natale il cuore si fa proprio pesante e direi che ci sono due percorsi per cui Natale può diventare un momento di grande sofferenza. Uno è oggettivo, se noi siamo reduci da un lutto, da una perdita, da una separazione, da un evento avverso oggettivo che ci ha colpito negli ultimi tempi, ecco, nel momento in cui arrivano le feste di Natale è come se automaticamente noi andassimo con la mente all'ultima volta in cui invece tutto era ancora lì, era ancora composto e c'era la presenza. Quindi questa perdita diventa evidente, c'è un posto libero a tavola, c'è una mancanza, c'è qualcosa che c'era e che non c'è più e questo chiaramente fa soffrire. C'è poi invece una percezione più soggettiva per alcune persone, perché Natale è proprio il momento in cui un po' forzatamente si fa famiglia con tutti, con quelli che magari ci piacciono, ci sono simpatici, ma abbiamo magari dei parenti che ci hanno causato delle sofferenze, oppure abbiamo delle situazioni non risolte, un po' di ruggine, siamo costretti un po' a indossare delle maschere che ci stanno strette e che a lungo andare non ci fanno stare bene, e c'è chi se le toglie e sbotta e chi invece se le tiene ma si ripiega su di sé. Esatto, di solito il pranzo di Natale è un momento in queste, per queste persone è un momento in cui si fa buon viso a cattivo gioco, i giorni successivi però sono giorni di continuo rimuginare su cosa ha fatto questo, cosa ha fatto quella, cosa ha detto questo, cosa ha detto quella, è come avere un criceto nella testa, ecco, bisogna proprio fermare il criceto e praticamente ritornare nel proprio copione, cioè invece che sentirsi un po' ancora attaccati o minacciati da qualcosa che un parente magari ha fatto, detto in modo molto maldestro al pranzo di Natale, pensare che in realtà non siamo noi le vittime di quel parente, è un po' quel parente la vittima di se stesso, perché neanche a Natale riesce a entrare nel copione giusto. Quindi Alberto, abbiamo un po' fotografato la situazione, tra l'altro ci scrive anche Sabrina a proposito del lutto, non vedo l'ora che passi il Natale dopo la morte del mio compagno, facendo riferimento a quelle mancanze, a quel dolore che è fisiologico, oggettivo della mancanza, perché il Natale è una lente di ingrandimento e quindi il posto vuoto, la mancanza pesa ancora di più. Ma Alberto, situazioni per uscire da questa sorta di impasse che in qualche modo ci impedisce di fare anche un bilancio dell'anno che si sta concludendo e di guardare al futuro, e al futuro si deve sempre, almeno si deve cercare di guardare con una serenità e con un po' di ottimismo, perché bisogna andare comunque avanti. Ma un po' anche come ho detto nel post che è stato effettivamente letto da tante persone e che probabilmente è stato anche un po' terapeutico, uscire dal dolore o non rimanere soltanto nel dolore non significa negare quel dolore, però ampliare un po' lo zoom della nostra attenzione emotiva e focalizzarci anche su tutto quello che di buono ci circonda, di quello che di buono viene fatto per noi. Chi sente un dolore molto forte tende proprio a rimanere in quella stanza gelida, a non volerne uscire, e conseguentemente anche tutto il buono, il bello, tutta quella zona di costruzione che c'è di fianco alla zona di distruzione prodotta dal lutto, dalla separazione, è come se non venisse vista. Ecco, bisogna fare uno sforzo attivo dove non dobbiamo fingere di stare bene nel bello, però dobbiamo accorgerci che comunque il bello continua ad esserci, a incidere nella nostra vita, e che se anche è vero che magari non abbiamo più un affetto importante, ci sono comunque molti affetti e molti legami che sono lì pronti a stare con noi e anche a confortarci nella tristezza. Alberto, un messaggio di Fulvio ci porta a una seconda riflessione. Fulvio ci scrive: sono per un padre separato, è uno dei momenti peggiori dell'anno. Parlo di me chiaramente, grazie del vostro lavoro, ci scrive Fulvio. E in effetti è così. Il Natale, si dice sempre, e lo sappiamo, è l'occasione per stare insieme alla propria famiglia, ai propri cari. Ma oggi si deve fare conti anche con delle famiglie che si sono sconquassate oppure che cercano con fatica di rimettersi insieme in quelle occasioni per fare un po' di festa. Alberto, e spesso, come Fulvio ci racconta, è un dolore per i padri, per le madri che sono separate dai loro figli, che non possono fare famiglia in questo giorno di festa, e anche per i bambini che devono a loro volta dividersi. Ci dai tre consigli su che cosa fare per evitare che i più piccoli possano vivere queste feste come uno tsunami emotivo, ma anche per dare una mano ai genitori come Fulvio che vivono in questa situazione di forte disagio? Ma direi ai genitori separati di ricordarsi che le feste del Natale, le emozioni correlate alle feste del Natale per i bambini rimarranno proprio come dei ricordi che costruiranno un po' il senso e il significato dei loro legami e delle loro relazioni. Quindi anche nelle separazioni a decenni di distanza i bambini ripenseranno al Natale e lì costruiranno i significati di chi erano i loro genitori per loro anche nella separazione. Allora è fondamentale che due genitori separati, seppure magari ancora molto sofferenti per la loro separazione, come ci fa sentire Fulvio, ecco, tendano a preservare il clima della festa per i bambini, siano molto cooperativi, non facciano mai della festa un'occasione di conflitto ulteriore, cioè prendere i bambini, non far incontrare l'altro genitore, raddoppiare i regali. È fondamentale che i bambini sentano che anche se marito e moglie non ci sono più, mamma e papà invece sono, ci sono sempre. Sempre a collaborare per loro. Grazie Alberto per essere stato con noi. Noi abbiamo linkato naturalmente il post di Alberto Pellai, che potete, so che l'avete letto in molti e siamo di questo molto contenti. Grazie Alberto, ci sentiamo presto. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi continuiamo a ristrutturarci, ma adesso tocca ristrutturare anche un po' il fisico. A tra poco. Cuore e denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. E adesso, dopo aver alleggerito il cuore, inteso come sede delle emozioni, adesso ci occupiamo del nostro fisico. In linea con noi, pronto a darci una mano, il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti, auguri a tutti voi. Come si sente in forma, dottor Confalonieri? Mi permetto di chiederglielo perché lei aveva condiviso, e mi era piaciuto molto, con grande generosità, insieme ai nostri ascoltatori, la dieta che stava seguendo, proprio il suo desiderio e la decisione di rimettersi in forma. Sì, sì, l'avevo condiviso in una fase, se vogliamo, iniziale, adesso direi che il traguardo è raggiunto. Ho perso tra i 10 e i 12 chili, diciamo, c'è quella variabilità di un chilo che è legata alle abitudini quotidiane, però sono molto soddisfatto. Ecco, soprattutto... quindi magari mettiamo, per alcuni di noi potrebbe essere questa un'occasione per mettere in cantiere un progetto per il prossimo anno di ritornare, rimettersi in forma, perché i vantaggi ci sono, non solo estetici, vero dottor Confalonieri? No, ci sono enormi vantaggi. Proprio nella fatica quotidiana, nella percezione del sé, cioè c'è un aumento dell'autostima che aumenta veramente in modo significativo il benessere globale, quindi si sta davvero meglio. L'importante è farlo, e ripeto anche oggi la mia parola magica, con gradualità e con tempi lunghi, perché in questo modo gli effetti sono stabili. Beh, quindi deve essere un progetto a medio-lungo termine. Io credo che i suoi pazienti possano beneficiare di questa esperienza, perché confrontarsi con un medico che questo percorso l'ha fatto sicuramente aiuta e migliora la sintonia, ci si dà reciprocamente una mano. Assolutamente, direi che ho riscontrato con mano che è aumentata molto la mia credibilità, nel senso che chi mi aveva visto 12 kg di più mi ritrova così. Dice però, sommato, vedi, non solo predica, esatto, ma anche razzola bene. Finalmente razzola bene anche il dottor Confalonieri, era ora. Era ora. Dottore, allora iniziamo un po' con gradualità, a scrollarci di dosso quella sana pigrizia che ci ha cullato in questi giorni di festa. Sana, e lo sottolineo perché anche poltrire sul divano ha i suoi vantaggi, dottore. Sì, assolutamente. Prendersi una pausa e riposare ha dei vantaggi enormi. Quindi anche stare sul divano, si recupera energia, si riduce il livello di stress e si ritorna in relazione con noi stessi. Poi magari anche qualche effetto collaterale, perché fermarci troppo a lungo sul divano può scatenare quei doloretti che erano nascosti e che magari vorremmo evitare perché ci rovinano questo periodo di feste. Allora, negli 10 minuti, 8 minuti che restano, noi vogliamo, abbiamo un piano, vero dottor Confalonieri? Certo, allora, assolutamente. Messaggi molto mirati e profilati, perché vogliamo occuparci di chi si sente un po' appesantito. Non parliamo adesso in questi due giorni di buttare giù il chilo e mezzo che gli esperti tutti gli anni conteggiano e dicono che accumuliamo tra Natale e Capodanno. Al peso in questo momento non ci pensiamo, pensiamo un po' a quella sensazione che ci dice: ma in effetti ho mangiato un po' troppo, oppure magari ho saltato anche il pasto, però mi sento un po' tra virgolette intasato. E ci occupiamo anche di quelli che, vuoi perché sono stati a lungo sul divano oppure hanno si sentono un po' quei dolorini alla schiena, si sentono un po' arrugginiti. Dottor Confalonieri, vada. Allora, partiamo da qualche strategia semplice per ridurre questo senso di appesantimento, di stordimento, di affaticamento legato magari proprio al troppo mangiare. Quindi in funzione proprio di un recupero dell'efficienza fisica. E qui avrei due strategie, una più classica, che però è corretto ripetere ogni volta, quindi la lunga passeggiata, la lunga uscita in bicicletta, il fit walk che adesso è così di moda al parco, piuttosto che il nordic walking se abbiamo tempo di andare in montagna, o la semplice camminata, che però sia almeno di 45-60 minuti. Facciamolo, oltretutto il clima quest'inverno è particolarmente favorevole, quindi non c'è neanche le problematiche del freddo. E questo, se vogliamo, l'approccio un pochettino più classico, che possiamo magari dedicare al weekend o alla giornata in cui abbiamo più tempo a disposizione. Però poi avrei anche un approccio alternativo. Dai, che mi piace quello. Che cosa ha pensato per noi? È quello del lavoro intervallato. E avrei anche un modo per farlo in modo piacevole in famiglia. Dai. Si è visto, cercherò di essere semplicissimo e sintetico, che l'alternanza di 20 secondi circa di attività con 20 secondi di riposo assoluto è estremamente efficace, non solo a livello cardiovascolare, ma anche per bruciare un po' dei grassi che abbiamo accumulato. Allora proviamo a farla divertendoci. Qual è il mio suggerimento? Una musica che ci piace, magari una musica anni 80 per noi che ormai si va verso i 60, oppure una musica che piace ai nostri bambini, la condividiamo con loro e ci mettiamo proprio a ballare, a danzare, a muoverci in modo libero da soli con i bambini, rispettando però queste tempistiche. 20 secondi di attività e di divertimento e poi 20 secondi di pausa assoluta. Ci divertiamo, condividiamo, stiamo insieme e ci rimettiamo in forma bruciando i grassi. Quindi una versione rock di 1-2-3 stella, tanto che più sì, o meno. Brava. Oppure semplicemente, per esempio, le basi pop sono perfette. Noi utilizziamo la fase rappata per muoverci e la fase melodica per fermarci. Musica che piace a tutti. Dottor Confalonieri, guardi quanta creatività c'è dietro a questi consigli. Un po' di cose originali ogni tanto bisogna buttarle lì. Certo, dai. Assolutamente. Poi? Invece andiamo a chi questi balletti magari non si sente proprio pronto a farli perché è un po' tutto rotto, insomma il classico legno dolente. Bravissimo, soprattutto ho già in mente alcune persone, guarda un po'. Soprattutto il fermarci un po' più a lungo, lo stare un po' più a lungo sul divano o semplicemente stare a letto qualche ora in più, a volte scatena i classici problemi a livello della colonna e soprattutto della colonna lombare, che sono un grosso problema anche perché peggiorano in modo significativo la qualità della nostra vita proprio in queste giornate. Allora io qui avrei anche qui due suggerimenti. Dai. Uno molto molto semplice. Un pochino di ginnastica posturale da fare a casa, ma in modo assolutamente facile. Quindi dobbiamo lavorare sugli addominali e dobbiamo lavorare sui glutei. Come fare? per gli addominali ci sdraiamo, magari mettiamo un tappetino, un tappeto morbido e comodo, ginocchia sollevate, quindi gambe leggermente piegate, e ci limitiamo a mimare il movimento di sollevamento del busto, quindi a contrarre gli addominali senza muoverci. Quindi il lavoro è quello che si dice isometrico, semplicemente contraiamo gli addominali. Insomma, facciamo finta. Facciamo finta. Dai, così contraiamo, gli altri ci vedono e dicono, guarda un po'. Come se ci volessimo sollevare, ma non ci solleviamo, così non c'è rischi per le articolazioni. Dai, mi piace. Manteniamo questa contrazione per circa 5 secondi e poi 5 secondi di pausa. Lo facciamo magari per 10-12 volte, non di più. Abbiamo potenziato in modo selettivo gli addominali. Ci riposiamo un po'. Per arrivare alla tartaruga ci vuole altro, ma insomma. Ci vuole altro, ma la schiena ne beneficia. Bravo. Subito. Invece poi, quello un po' alternativo? No, devo finire questo, perdonami, sarò rapidissimo. La stessa cosa la facciamo per i glutei, cioè ci sdraiamo sulla pancia, non più sulla schiena, e mimiamo, facciamo finta, come dicevi, il sollevamento della gamba. Quindi siamo sdraiati sulla pancia e contraiamo i glutei in modo come se volessimo sollevare la gamba verso l'alto. Non la solleviamo, così non c'è sovraccarico a livello articolare. Manteniamo la contrazione prima sul gluteo destro, poi sul gluteo sinistro per circa 5 secondi. Facciamo sempre 5 secondi di pausa. In questo modo, potenziando glutei e addominali, abbiamo riequilibrato i carichi a livello della colonna. Stiamo subito meglio e tutto sommato forse siamo anche migliorati un pochettino dal punto di vista estetico. Dottor Confalonieri, allora abbiamo ancora un minutino perché se no altro che glutei addominali, Carmelo mi taglia la testa, 30 secondi. 30 secondi, se abbiamo tempo facciamo una puntata in piscina, ma non per nuotare, per camminare nell'acqua. Semplicemente camminare nell'acqua è un toccasana quasi miracoloso per la nostra colonna. Quindi pensiamo alla piscina ma vissuta in verticale, camminando. Credetemi, è un regalo che vi faccio per il nuovo anno, vi farà benissimo. Allora lei ci faccia un altro regalo, torni presto a trovarci, intanto ma Carmelo certo, lo mando in certo. piscina anche lui a camminare, guarda che lo vedo qua lì che sarebbe una bellezza per lui. Dottor Confalonieri, prossimo anno con un programma di recupero, Va proprio ideato da lei, come si dice, esperienza vissuta, vita vissuta. Grazie al dottor Confalonieri. Ci sarò, ancora auguri a tutti. Anche a lei, auguri a voi, e noi ci risentiamo ancora domani alle 10.30, sempre con Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Tra poco torna anche Deborah, esattamente venerdì. Vi aspetto domani alle 10.30. Buon pomeriggio da Nicoletta.